ora? Manuele, mica sei fuori mi. Manuele? Mi senti? Adesso sì, ma eri fuori. No, era una ferma, no, ero fuori. Ma cosa sei in FM? Sì, la stessa c'è una ferma. Sono una mala, per carità. Manuele, ti sento male? Come male? Sei fuori frequenza. No, è fuori frequenza. Siamo a 27.075. Io ti sento male. Sei fuori. Aspettiamo, siamo in frequenza. Siamo in frequenza io. Sembra che sei malato, con la febbre, sai, febbre, io, boh. Ma noi, o sei in FM, boh. Cos'è? O sei in FM, o vado a buttare di Pavia. No, sono male, ne so. Stai uscendo male? Come sto uscendo male, scusa, Se ci vuoi dire, sei scendo male? Fa un passaggio lungo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A me mi dà che sto uscendo bene. Ora. Sto uscendo bene, a me mi dà la frequenza è quella 27073, stai uscendo 27073 brava, ti ho centrato la 27, adesso sono a 75. Aspetta un attimo. Oh, cazzo, vuoi sei fuori, Manuele? Ti sento male, sei fuori frequenza. Dove? Oh, mi senti? Adesso meglio. Adesso meglio, adesso dovrebbe essere al 100% in frequenza. Prima perché stai uscendo così male? Perché ero sulla frequenza. È bravo, sì. Non me ne sono accorto. Ma ti dico, stai uscendo male, tu non sei frequenza. Allora, aspetta un attimo. Cazzo, un casino di dassi, no? Madonna. Tony? Oh? Aspetta, mi senti bene, sì? Sì, strano. Sì. È strano, la modulazione è quella. No, no, no, stai facendo male di nuovo. Aspetta un attimo. Chissà se sei conveniente, tu. Fai. Oh, sei scendi con un'antenna VHF, 27, no, non lo so, ho scelto una VHF, quello è come un posto nell'altro. Cazzo, pare che mi ha un patato in bocca. Cazzo, un patato in bocca. Ehi, sei tutto strano, guarda. Ah, siete al secondo, sei guardato un attimo. Aspetta, guarda, che ho prima. Tony? Eh? Adesso? Adesso è meglio. Ecco qua. Si può sapere oggi come niente? Guarda adesso. Prova. 1, 2, 3, 4. Adesso sei tu. Perché allora tu mi ascoltavi troppo in saturazione perché c'avevo il compressore inserito. Tu c'avevi la patata in bocca. No, vedi, adesso ti metto il compressore, come adesso, più forte. Ma è tutto casino, Adesso c'è due patate poche. Sì, via. Vabbè, dai, l'ho tolto. Cosa è stata? Comandò qui in Far West, scusate, 34. Ah, i cassetti per i miei vecchi. Vabbè. Tutti i film vecchi. Questo non l'avevo visto. Me la fugo del canale a posto. Eccovi. Sono abbassato, non sta la parte di come c'è poi di batteria uscita. C'è di batteria uscita, c'era. Ah. E tu lo capisci, poi non la parte, lo fatto. Ehi, guarda, tu sei gatta. Mi hai detto, non lo farai. ecco l'ufficio. Cazzo, della polizia, lui sa che mi ha confessato. Eia. Dobbiamo fare quel bottino e quella stessa lì, che il posto la vanno a tutti un po' diverso. La pancia piena. Caricato sotto, caricato sotto. Caricato sotto. Caricato sotto. E caricato sopra. Pomeriggio ho scaricato sotto. E stasera ho cenato caricato sopra. Sì, la caricato. Ehi, la bella per me. Quando sono bucato, che cose no? Ah, io sì, a 12 minuti. Allora, quando lavora sotto il sotto e produce a via. Allora, cosa ho fatto? Ho scaricato la roba che c'è in macchina io, ecco, no? E non mi stanno in testa, non c'è una sinistra. E ho caricato l'armadio, ma l'armadio il tavolo, ho portato l'acqua a posto, poi sono rientrato a casa, sono ciclisti. Nelle casette di attrezzatura eccetera per la macchina che ho lasciato per terra, c'era anche un rotolo di sotto. Ma noi, pareva che mi era nevicato in Inghilterra. Io sono stato qui tanto da cogliere di roba con la parola, quattro volte. Ma cosa avete fatto? Guai a voi che l'ho fatto. Questo giorno qui puccia e mi guardava. Anche lui ha. Comunque ho chiamato il veterinario per far fare le cane che ha fatto, no? Cosa con il naso. Ha detto che è uno starnuto retroattivo, una parola del genere. Quando fa così, gli tappa il naso e lui non lo fa più. Non è niente di grave. Comunque, se per precauzioni lo vuoi portare a fare una lastra, non c'è problema. Cazzo, devo costruire, no, la papi qui. E mi ha detto... cosa vai, non mi ricordo più. Che sapete, è tra l'altro, è dopo così. Comunque, ecco che c'è su Google, basta cercare e c'è anche il video e il sito che sono uguali e non posso farmi, non c'è problema. Sì, ma tu sai che è una razza. Non lo farò così. Sì, io sto per dire, ma me ne dà lì, lo cito io. Sì, ho preso fuori, ma non è. Abbassa il corpo, hanno legato dalla corda, perfetto. Il pannello di dietro c'è ancora qua, infatti. Avevo pensato domani. Siamo anche a me in due, alla ragione mi viene male di agire così. Mi ricordo che io me la sono trascinato fino a fuori la macchina e cercando di entrare non ce l'ho uscito, però l'ho riportato dentro e ho detto bombato, non mi ha fatto, io mi sono buscato. E la vita? Ammazzo. L'acqua rossa, Manuè. Ah. Ah, tu non sai la scena. Quando ho portato lì stasera qua, ha visto il tavolo? No, non mi piace, toglierò tutto. Col pannello che l'ho incollato sopra. Mi ha fatto bucare, la senda a pezzo, quello che sa vita, sta di nido, un casino. Allora devo bucare. Tutto qua, è rimasto qua, pezzina, la colla secca, per buffi, con buffi, ci si esce, lì si esce. È rimasto pezzo, attaccato. Sei un altro, gli hai scritto, poi gli ha fatto un bacca. Tutto è casino, ma non è. A pezzare, il giorno adesso ce l'ho fatto. Infatti, ma come la fatica, ho ripagato il filo, c'è buffi, buffi. E infatti la ecco, da oggi puoi di fare, non fare cose che sono tue, soprattutto per me, allora me lo devi chiedere, e io te lo dico, no. Allora, su. Ma te lo metto. No, c'è buono TBS, ma non è. Stare con lo tacchino qua. Possiamo stare con la stessa ma se procuro un pezzo di tavola te lo faccio nuovo a misura, perfetto, vedo che è appunto a tempo di sei crescenti su Carlo, ma vediamo, dai, ho risvolto qualche armadio, e la per salve domani, ehi, domani è già stato stato a fare buchi di sotto tornata tanto non è che posso stare un po' no, mica torno ma il pannello ce l'hai per il cassetto non sono per il cassetto per il facciata sì. No, devo cercarlo e quindi cosa fai? Lasciamo quello e lasciamo altri già lo procuriamo sì, ma ci stai ricetta facciamo a farlo domani. Già ce la facciamo, fu domani verso le 10:30 a prendere la rosata e la mia figlia. Allora, se male io tanto come la mattina ci devo riuscire a lavorare, è una bella cosa. Se le 10:30 ci dovrei essere là. Se c'è proprio la lavorare, quando arrivi, lo farà la stampata, vengo proposto, non c'è problema. E ma come sono tornata a me pare proprio un quarto arrivato mi sa che metto un quarto arrivato io non ho pensato la televisione non c'è nulla non c'è neanche guardata la sta accendendo per avere per luce in camera a chi se la non vedo ma che faccia io devo andare nel segmento 5, mi sto facendo la macchina matrice, me la sento. Adesso comincio a fare i buchi. Fare i buchi ai sì. Ehi. Ma buchi nuovi. Ehi. E non ti devo fare cose da essere lì. Non penso a buchi no. Ah, per buchi. Chi ti ha comprato un tiro buccio nuovo, eh? Ma chi ti ha la lampa? Dice, forse Lugano è generale a fare il peggio. Forse è magnato. Ma tra l'altro devi disturbare. Sì, poi ci preoccupa. Ma oggi sta bene con la lampa. Sì. Oh, io che non so, ma ci vado, ma sono tornato. Ma che tu qui? Se mi sono bussato la lampa. Non fanno il sambuccio, non c'era più. Non c'era, non mi frega però. La fatica puntuale e sono una volta io la prendo la nota adesso perché alla 11 stamattina non l'ho presa vedi? E tu ti dico a me allora vedi? No, non ho presa perché il cazzo si è mettato in inizio giusto e poi ci sono vedi, una cosa o l'altra, a me un diversamente, o io lavoro, quello che mi dice fammi questo, fammi quell'altro, manca questo, e insomma ti dice in capo, ma è così Manuel, a meno che sei ricoverato e ti rimbocca l'infermiera le pastiglie puntuali. Io 10:35, perfetto. Anzi, domani 10:35 è buona vicina. A me mi pare comunque una falsità. A proposito, parlando con la burla di alla convito agraria, a fatto qua, anche il marito ha le neodospi di disco, come lui. Ho papà la sua tibuta mia, ho papà il corso, pronto. Metto questo ortopedico, si chiama Girante, ah, però si è fatto bravo, sì. Il nome di questo primario, questo ospedale, ho trovato, ho messo, altro che lo cerco io, meno, sono decentrata ETA, e mi ha dato il numero della segreteria, il numero di prenotarsi e tutto quanto, ma lui dice che telefono. Ma ti ritorno, voglio morire. Vediamo, lui ci fanno questa roba. E cioè, se può avere, vuol dire, è carico. E lui ci dice, in caso della risanata, la vedo fatta da poco, oppure non è anche da passare dell'anno scorso. Vabbè, la mia è proprio un infatti, non ho fatto un infatti. Comunque io ho provato a fare soltanto il numero dei due numeri che mi ha dato. E mi ha risposto la voce registrata dicendo che questo fatto dicevano da lunedì a venerdì. Oggi era sabato, chi ci ha chiuso. Adesso è sabato, sta guardando. Sei un litigare, ma non è. Adesso ci sono arrivato. Prossimo il sabato non ci facciamo tutti. E allora, so che ti posso dire meno 11, perché non mi sono calcolato che mi faccio un mese di figli agosto io. Da agosto fino a settembre sono in pensione, c'è via luce. Sì, quindi da, lavoro fino al 13 agosto, al prossimo anno. Mi prendo un mese e mezzo di figli che accumulo con tanto e poi non torno più fuori pensione. Ah, 15 mesi. Sai, quando non mangerà bisogno c'è Natale, poi gennaio, e quando arriva gennaio anche 8 mesi pura. Il cestino non ce l'ha dato più, è stato ormai tornicato con la culla che costava ancora di là. Dopo un po' di anni, manco un iso si è fatto, pure la gira butta e si ritorna di là. Sì, va bene. può guardare, guardare tu, deve essere deciso la batteria, il collo lo vogliono attaccare. Sì, ma ci ho fatto la noia. Mi sapevo che si butta e forguccia. Ma là come ti sapeva, diciamo, il sottotipo che è uguale. Allora ci è fatto, è subito. Sì, va bene, ma ci vediamo domani, dai. Ok. Va bene, dai. Ok, ci sentiamo domani, va bene. Poi, quando ci siamo passati, il mio. Ciao, buonanotte. Sì, sono aspettare la tua felicità. Ok, ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte.